parole, non ho capito. Cosa volevi dire, Luca? Anda bene, Mela. No problem. E comunque non è stato confermato niente ancora, neanche a me hanno detto nulla. Già mi telefoneranno e vediamo un po' se la fanno, se non la fanno. Vediamo un po'. Riprendi, Giuseppe. Sì, grazie Natalia, anche perché io l'ho saputo per caso, perché la sera che sono entrato c'era Roberto e, se non mi ricordo male, anche Massimiliano, credo Bulldozer, e niente, stavano discutendo anche con Gianni di questa pizzata che si doveva fare, organizzare anche il dove si doveva fare, mi hai capito? E niente, e poi il discorso è caduto lì. Anche ieri sera Gianni mi ha detto: ah Giuseppe, naturalmente dice l'invito è valido anche per te, però anch'io come voi, attenzione, non so né dove, non so né quando e non so nemmeno se si fa. Avanti. Luca non riprende, non riprendo io al posto di Luca, aspetta. Se entra lo facciamo rientrare, non c'è problema. Scusate, volevo dire Giuseppe, l'idea veramente è partita da Roberto, da me, da Capri 2 e da Maestrale. Ma perché? Perché dobbiamo parlare di un discorsetto che ti dirò in verticale. Poi se anche gli altri vogliono venire non c'è problema. Capito? Comunque quelle persone ancora non mi hanno dato conferma. Quando mi telefonano e mi dicono stasera ci va, prendiamo e andiamo, non c'è problema. Ci troviamo in un posto e poi andiamo e ci facciamo la signora di tanta. Però prima dobbiamo parlare in un certo discorso quelle quattro persone che ti ho detto, che ci interessa in modo particolare a me e a quelle altre tre persone. Voi date tutto quello che vi pare e vi piace. Capa Natalia, è perfettamente d'accordo con te, diciamo al 100% d'accordo, anche perché se ci si ritrova e niente, è bello discutere, ci si confronta, ci sono mille discorsi di cui, mille modi in cui parlare, mille modi in cui confrontarsi, conoscersi soprattutto, è la cosa più importante, una stretta di mano, perché una cosa è conoscersi diciamo dietro un microfono, una cosa è avere anche la fortuna, visto che meno male qui dentro perlomeno io mi reputo di stare dentro diciamo dentro una famiglia, no? Niente, anche la stretta di mano non è che guasti, ecco, non è tanto il discorso, sai, dell'avviso, del coro. Il bello è stare in compagnia, sia che sei dietro un microfono, sia che sei davanti alla persona, la conosci di persona, e niente, è una bella cosa, dai. Se poi non si fa, io con Pierpaolo stavo discutendo anche di un'altra possibilità ieri sera. Possiamo andare anche a Contamosso, se quelli non vengono ce la facciamo per i cavoli nostri, la cosa, capito? Là io... Capito, non c'è problema, tanto Pierpaolo è amico mio, Gianni lo stesso, quindi non c'è problema, Giuseppe. Se gli altri non vengono noi la possiamo fare ugualmente. Quando la si farà per quel discorso che ti stavo dicendo, si farà e basta, cosa vuoi dire? Se loro non vengono all'appuntamento la facciamo per i fatti nostri, non c'è problema per questo, basta metterci d'accordo e si fa il tutto, cava cava, riprendi Giuseppe. Capa Natalia, perfettamente d'accordo con te, anche perché se non si dovesse fare, tu ieri, sì che eri con noi ieri che stavi provando il microfono, mannaggia, alla mia testa, ogni tanto comincio a dare numeri anch'io, un po' per la stanchezza, un po' anche perché l'età avanza Natalia, e addirittura ieri stavo parlando con Pierpaolo, se proprio magari non si fa niente, ci si vuole organizzare, anche una puntatina di Sassandrino e non si fa male. Io sto stremendo, non c'è dovessero far vedere o non si dovessero decidere, organizziamo qualcosa noi, no? Come problema, Parigi? Capito? Già non litigiamo per quello. Ebbene, su quello ne sono più che certo. La stessa domanda la giro anche a Falchetto, non so se la cucina di Sandrino a Falchetto le garba. Avanti Falchetto. No, positivo, a me qualunque posto va più che bene, non c'è problema. Capito? Così, dai. Ok, rilascia te il mic. Giuseppe, va. Sì, grazie Pache. Sì, per me va bene, non è, come ripeto, non ho nessun problema. L'amicizia prima di tutto, poi viene la mangeria, per carità. Niente, io volevo ricollegarmi un attimino con Natalino. Per dirti, Natalino, l'apparato ha cominciato a saltare, ma stai uscendo, che è una meraviglia stasera. È come che io ti abbia qui seduto nel tavolo a fianco a me. Quasi quasi ne approfitto se sei qui a fianco a me per versarti qualcosa da bere. Cambio per te, Natalino. Ha cominciato a scaldare, vai, forse magari in affreddo, oppure non lo so, comunque sta andando bene, così di radio mi sta dicendo. Natali, è come che tu sei qui seduto nella sedia a fianco a me, nella chiara, pulita la voce, ti ripeto, è come io qui seduto nella sedia a fianco a me, Natali. Sì, capa, non c'è problema. Io sono col braccio lungo di te, sono più di un metro lontano dal microfono. Perché ci ho messo l'altra mano nel termosifone per scaldarmela. Vai che stai andando alla grande, Natali, hai lavorato, ti ha dato mattana, come diciamo noi qui a Sassari, però sei un grande, in mezzo a quella foglia di fili sei riuscito a averla vista tu. Infatti, perché mi dispiaceva, è un microfono degli anni 70, figurati. Non c'è problema. E questo che sto usando è un presidente Lincoln. Questo apparecchio qua. Al limite te ne faccio sentire altri due. Non c'è problema. Vai Natali, rimani così stasera che sei una bomba. Guarda, io da quando sono entrato a modulare non ti ho mai sentito così chiaro, credimi. Sì, addirittura. E questo è un baracchinetto così. Qui c'è anche quello della macchina, qua. Ma non mi ha fatto l'attacco con un alimentatore di computer, no? Mi ha fatto, siccome mi si è crepato l'altro alimentatore, cioè voi, allora con questo alimentatore di computer me ne ha fatto uno per il baracchino, me ne ha fatto. Mi ha messo interruttore, le bananine e tutto quanto. E mi ha portato quello della macchina, così posso muscolare anche quando sono sdraiato, figurati. Aspetta però, ti faccio sentire quello grandetto che ho visto in foto. Ok, riprendo io, padre. Se si può avere un controllo radio qua dalla stazione precaria di Falchetto, Ti supero il cordialista, dai, se puoi controcambiare il controllo a partire, dai. Ok, vai avanti Giuseppe. Sì, Falchetto, avanti, ti aggancio io, vai pure. Yeah. Attenzione, l'amico Giuseppe si va ascoltando Falchetto, la stazione precaria, cambio. Sì, Falchetto, qui arrivi a bomba, hai un Santiago di 9 più 15 e una radio di 5 più 10 e lode, proprio bella, chiara, nitida, Falchetto, complimenti. Ok, dai, l'ho cambiato al 100 da questa parte, anche non scherzi, al 100% qua. Ok, dai, poter cambio il tuo controllo, dai. Un Santiago 920 e radio bomba, cambio. Grazie Falchetto, K di Roger. Ascolta, questo dovrebbe essere ancora, ma... c'è qualcosa che non... Non ecco, sono soltanto... Attento Giuseppe, mi ascolti? È positivo. Ma questa, cosa ne dici di questa radio? No, questa no, è sovramodulata, stai anche gracchiando un pochino, forse sei troppo vicino, Natalia. Forse è stretto l'apparato. Aspetta un attimo. Accordato. No, allora. Forse è stretto l'apparato, là. Come va come radio adesso? Sì, come radio è migliorato un pochino, però era più limpido, più cristallino l'altro, Natalì. E questo rimane più cupo, più ruvido, dai, come voce. Ho capito, c'ha troppi toni bassi questo, là. Papà. Ti fa la voce più rossa, diciamo così. Lo confermare io, Questa mi sembra più mascola, più mascola, Già lo so, ci mancherebbe che non sia mascola questa qui. Vabbè, già ha capito con quale sto parlando l'amico Giuseppe, là non c'è problema. Positivo, quando arrivi a pompa, non ti do la radio perché se non me ne vergogno più di 5. Ok, tutta pompa qua. Siamo ad oggi. Riprendi la tarina. Allora, questo qui è quello che hai visto tu in quella fotografia, Giuseppe. Uno di quelli lì è questo. Cappa Napalì, è una bomba orologeria, il tuo, qui sta arrivando proprio a bomboletta al massimo. Sì, sta facendo anche basso, posso aumentare volendo. Se aumenti ho l'impressione che la portante che ho io cominci a girare da sola, cambia Napalì. Bella, guarda, è molto più rotta, diciamo, come voce dell'altro apparato, però stai arrivando a palla veramente, Natali, complimenti. Cosa ti volevo dire? Già c'è qualche altro, ti faccio sentire quello piccolino che c'ha da voi in macchina. Gli faccio sentire, non quello che conosci tu, però, Giuseppe. Che cappa Natalì, anche quello che avevi tu in macchina è uno spettacolo, è veramente un bellissimo apparato. Vabbè, ma non ha niente a che fare con questi. Aspetta un attimo, ma già entro con un break, là. Giuseppe, dai, entra, già fa il break Natalì, dai. Avanti chi deve entrare? Ho detto sono io, ho detto a riprendere tu Giuseppe, che Natalì già entra con il break, cambio. Ho capito qualche, adesso sono io che stavo facendo un po' di casino, perché mi era sembrato in sottofondo di aver sentito un break, chiedo scusa. No, non c'è problema, dai, basta lasciare un attimino di bianco, vediamo un po'. Se c'è qualche prego, lasciamo 2 secondi di bianco e vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare. Falchetto. Dimmi Natalì. Guarda, questo è quello piccolino là, col microfono normale. È come se sei seduto a fianco a me, confermi Giuseppe. Cappa, perché io qui ho Natalino dentro casa seduto a mio fianco, cambio. Certo, sentivo Natalì. E cosa pretendi di più, dai Natalì? C'è una bomba, riprendi. Questo non è un microfono da tavola, questo è il microfono normale, è suo. Caspita, sta uscendo la bomba. Sembra che sei qui a fianco a me, Riprendi. Cappa, no problem. A Gianni volevo aspettare Così glielo faccio sentire come l'ha regolato adesso questo qui, perché questo se non lo regoli manco di radio esce. Gamma del positivo. Agito 1%, dai, riprendi Giuseppe. Grazie amico Falchetto, riprende Giuseppe Tornado per chiedervi gentilmente due secondi di bianco perché ho una richiesta urgente della bimba, arrivo fra 20 secondi. Non c'è problema, ok, a 100%, riprendi la televisione. Gaba gaba. A Gianni lo volevo far sentire questo qui a vedere come mi sente, là. No, lo fai sentire anche a me. E chi sei tu? Dai, fammelo sentire. Vai, andiamo alla liga, buonasera. Mi chiamo il Chetto di nuovo, buonasera. Allora, riprendi qualche... positivo domenico, dai, accetto. Allora, ci andiamo stamani, cioè stasera, Riprendi domenico. Imparta lento, qualche abbasso un pochettino, ecco, che ti sta coprendo. Imparta lento, dai. Riprendi la qualche, prendila. Positivo, dai. Contrattacco con tutto, dai, da questa parte, dai, ti rilancio Natalino. Vai avanti Natalino, per i saluti a Domenico. Appa. Ciao Domenico, ben sentito, va. Andando? Ciao, allora ci andando, Natalino, solo vicino, no? Santiago, 9, Radio 75 qua. Gara. Sì, vabbè, questo è un baracchinetto così, da microfono da palmo. Benissimo, benissimo. Va bene, forte e chiaro. Cara gara, va bene. Sono contento che mi hai sentito anche lì arrivo. Che... Perché per gli amici delle 21, Fabio. Avanti Giuseppe, c'è Domenico Tarzanetto qua. Silvio Tissi Usini. Ok, avanti ancora te, Giuseppe, per i saluti a Domenico K. Sì, benvenuto Domenico nel nostro giro da parte di Giuseppe Tornado. Benvenuto, buona serata e buon tutto. Avanti a te Tardamento, cambio. Giuseppe Tornado, buonasera, ben sentito pure a lei. Siamo qua, a livello di partenza, dai. Sì, grazie. Come dice anche il proverbio, chi si ferma è perduto. Quindi si riparte sempre. Altro giro, altra ruota, come fa il sottoscritto domattina. Si sale su in barra pesante, si parte e via. Altro giro, altra corsa. Cambio. No, io sono dell'opinione, chi non lo può non fa l'amore. Allora io parlo sempre. Positivo Domenico, positivo al 100%, dai, chi non lavora fa l'amore, è vero, confermo quello che dici, dai, riprendi Natalino. Anche io sono di quel parere, comunque è un collega tuo, carissimo Giuseppe, l'amico Tarzanetto, Domenico è un signor artista, cara gara, avanti Giuseppe. Sì, Kappa, Natali, l'autista è un mestiere forse il più bello del mondo, forse me lo può confermare anche l'amico Tarzanetto, cambio. Dipende dal punto di vista dove lo fai, chi lo fa come passione è un bellissimo mestiere, e dipende sotto dove è che azienda grafica è quello, ma per adesso siamo capitati. Forse è perché in una zona bassa, capito? Tieni un po' tarzanetto se mi riesci a copiare, cambio. Adesso ti ho copiato di nuovo, dai, prima ti ho perso, adesso via l'Italia, lì ti ho perso. Ma poi ancora di camionista. Dove siete sovrappodurati, dai. Positivo, vai tranquillo Tarzanetto, se si risente, ci si risente dopo, dai, buon proseguimento e buon tutto, e rilancio il like al volo all'amico Natalino. Ci si risente dopo, carissimo Domenico, alle prossime, dai, entrate in bocca, dai, entrate in bocca amico. Domenica entrata in bocca, riprendi Natalì. Ecco, si accappa, va bene, non c'è problema, dai. Riprende subito, avanti Giuseppe. Grazie Pacchetto, non ho capito bene se l'amico Tarzanetto era di rientro oppure di partenza, mai capì Pacchetto. Tutto partenza Olbia, tutto partenza Olbia, sei copiato, cambio. Kappa di Roger Pacchetto, grazie. È positivo, io ho un tarzanetto, sento la mattina quando rientro alle 4:15, dai, più o meno. Comunque adesso appena esce dalle gallerie riprende subito la grande, dai. Kappa Pacchetto, niente, avanti il mic a Natalino per i saluti all'amico Tarzanetto, se è venuto fuori dalla bocca, cambio. L'ho già salutato a Domenico, a Pinto, l'ho già salutato. Kappa Natalino, era fuggito. Vediamo un po' se lo sentiamo quando esce dalle buche, non c'è problema, dai. E sai una cosa Natali, uscendo da quelle buche mi sono reso conto anch'io che è una zona un po' impervia lì, sei proprio dentro un bunker, diciamo. Lo so, infatti lì dentro non si deve modulare, sennò si sorgono stazionare che si eclipsi finali, capito? Però quando vieni fuori anche dalle buche che sei diciamo tra il bivio di ossi e il cementificio è tosta lì venire fuori con l'antenna della farra. Va bene, non c'è problema, vediamo un po' se ci arriviamo a Domenico, capito? Già lo so che anch'io già ho visto com'è la situazione. Ma se ci mettiamo d'accordo con Natalì e cominciamo pian pianino a spianare così e riusciamo a passare un pochino qualche montagna anche per Capri 2, anche perché se poi io qui mi affaccio dalla finestra di cucina, niente di strano che col binocolo se riusciamo a spianare qualcosa lì riesco anche a vederlo. Capri 2 basta ci alzi un po' l'antenna o se la cambi e vedrai che Capri 2 arriva sparato qua. Dimmi una cosa, tu sai che antenna sta modulando Capri 2, perché Natalì? Sì, con una gran linea, bassa pure, li toccano radiali sul tetto, perché di regola vorrebbe almeno un quarto d'onda, i radiali vogliono almeno un quarto d'onda fuori dal tetto, e sarebbe circa 3 metri. Figurati, anche perché io ieri proprio non riuscivo più a copiarlo in nessuna maniera, c'è stato la prima mezz'ora ho parlato tranquillamente ed era una delle poche volte che sono riuscito a parlare con Capri 2, dopodiché non so cosa sia successo, ma è successo, magari forse c'era anche poca diffusione o come la chiamate voi nell'aria, l'ho proprio perso nel giro di una ventina di minuti e Natalì, eppure gli altri mi hanno detto lo sentivano, forse altri più in alto di me. Quando? Quello ti volevo dire Giuseppe, anche la tua antenna non è che sia tanto alta. Ma io Natalì, fate conto, ho 5 metri di, no, 6 metri di tubo, e il resto è tutto mantova, e più di quello dove la devo portare questa antenna, Natalia? Ma bisogna vedere quanto sbuca, per quanti metri ne sbucano dal tempo. Attenzione un attimo, forse vi siete sovrapposti. Avanti, chi deve entrare? Cambio. Qua è antenna 1, buona serata ragazzi, come va? Sto bene? È positivo, dai, è Domenico che è rientrato, dai. Ok, io Domenico ti sento, non so se ti sento con gli amici, avanti per Natalino se senti a Domenico, cambio. Non mi senti, mi sa che rimasto, c'è anche un altro che è entrato, antenna 1 mi sembra che ha detto, e forse sta sovrapposando a Domenico. Attenzione, antenna 1, siamo a 3, fatemi rientrare, stai sovrapposando, cambio. Cavolo, ci viene dove tu fai pietà. Positivo, attento antenna 1, un attimo che è entrato Domenico, avanti Domenico! Antenna 1, stai sovramodulando, ti ho detto, un attimino! Antenna 1, non sovramodulare il QSO, c'è Domenico che vuole salutare, avanti Domenico! Negativo, non lo sento, Natali, riprendi tu. Certo, quindi non posso, se quella zona è corta, vedi cosa succede, antenna 1 non sente e sovramodula, riprendi Giuseppe. Sì, qui io non si capisco più niente, Natalie. Si sta nelle questioni, si sta sporcando un pochino, perché ci sono troppe sovramodulazioni, una con l'altra, cambio. Infatti. Se non riusciamo a educare, torna tutti i CB, succede un macello, perché anni addietro c'erano 40 canali, 40 canali pieni di gente, non c'era un canale libero. E se non moduliamo come si deve modulare, succede un macello. Visto che era successo, avevo ragione Giuseppe. Riprendi tu e fai girare per qualche etto, dai. Che calma Natalie, le cose giuste io guarda, le ho sempre ammirate perché poi col passare del tempo ti accorgi anche dell'esperienza delle persone e di come funziona bene la cosa. Dai. E niente, facciamo girare a Falchetto e vediamo un po' se riesce a far entrare questo track, se riusciamo a far entrare, perché avanti non hai capito. Positivo, ti ringrazio, dai. Ok, io volevo rilanciare Domenico se ci incontri ancora. Avanti Domenico, Caragarau. Positivo accento Domenico, dai, non so se gli amici ti copiano. Comunque vieni avanti, qua il passaggio è appena più lungo, vediamo un po' se riusciamo a tirarti fuori, dai, cava. Positivo, dai. Non so se gli amici ti copiano, avanti Natalino per Domenico. Sì, zona d'ombra per qua, dai. Lo sento modulare ma è incomprensibile qua, arriva basso basso, ma è comprensibile perché è una zona un po' lotta, te l'ha detto anche l'amico Giuseppe, capito? È un macello purtroppo, quando è così. Lasciano salire più in alto, vedrai che lo sento molto di più. Vagava, vai. Domenico, dai, vai più in alto che riusciamo a copiare, dai, non c'è problema. Ok, rilancio il mic a Giuseppe, avanti Giuseppe. Sì, grazie Falchetto, anch'io non riesco a copiare l'amico Domenico, ma se tu riesci a agganciarlo, niente, come tu saprai fare benissimo, meglio di me, dargli la carica che ti serve in questo momento, a te il mic e Falchetto. Positivo, dai, accetto Domenico, dai, gli amici ti ascoltano un po' in mezzo al QRM, dai. Se ci ascolti faccio un break come sai fare tu, dai. Vieni avanti Domenico. Positivo, grande salita a San Carlo, dai. Riprendi la tarina se l'ascolti a Domenico. È ancora negativo, dai. Riprendo per salutarvi che io me ne vado a fare qualcosa in cucina per mettere sotto i denti, al limite già entro più tardi, rimango in ascolto, riprendo per voi per questo, io purtroppo mi devo assentare. Positivo, vai. Ok Domenico, dai, Natalino si assenta per fare un po' carica, dai. Se stai copiando ti saluta al 101%, dai, da questa parte, cambio. No, ma dai, l'ho sentito forte e chiaro, che Natalino, dai. Facciamo un prosieguo a tutti, a chi ha lo scavalco qua, mi trovi bene. Facciamo un prosieguo, hai tante cose belle. A domani. Caparoggero al 100, dai. Riprendi Giuseppe. Sì, grazie Franchetto, in quel passaggio sono riuscito a copiarlo io abbastanza bene a Domenico. Non so se lui mi sta copiando, comunque vai Domenico, vai forte, buon viaggio e buon tutto e niente, ci si sente alle prossime se non riesco più a copiarti. Ciao Domenico. No, dimmi pure. Ha detto che si è copiato al 100, il contraccambio quello che tu hai detto al 100%, dai, ha fatto un ciao ciao. Ok, positivo, ma che alla grande. Senti, se tu sei d'accordo con me, vedi un po' più di recuperare quelle frecche che c'è stato un paio di minuti fa. Avanti, perché... Positivo, dai, se mi ascolta. Avanti il break che c'era poc'anzi. Vieni avanti con la buonasera. Negativo, Giuseppe, non lo sento. No, antenna 1 deve essere allacciato. Positivo, pazienza. Se vuole entrare, riapre il break di nuovo, dai. Riprendi, Giuseppe. Sì, positivo, qualche grazie. Dovrà scusarci un attimino antenna 1, però diciamo la precedenza era per Domenico, essendo in barra pesante rischiavamo di perderlo. Non so se sei ancora all'ascolto, antenna 1, però cerca di capire anche la priorità di certi collegamenti. Avanti il mic per qualche, forse riesci ancora a copiare a Domenico e tuo qualche, avanti. Positivo. Ok Domenico, se mi ascolti ancora, dai, molto a banco, buon rientro, ce la ascoltiamo domani mattina presto. Gava gava, se ascolti qua alla stazione Falchetto, cambio. Anche qua. No, negativo, dai, Domenico deve essere che ha chiuso. Comunque buonasera Antonello Pomponio, dai, in compagnia di Giuseppe, dai, ti rilascio il mic di Giuseppe per i saluti per Pomponio, cambio. Sì, grazie Falchetto, gentile come sempre, ok, ben trovato Pomponio, benvenuto qui in mezzo a noi, niente, avanti il mic a te per Pomponio. Quello era Pomponio, è Mario Masse, buonasera Mario Masse, buonasera a tutti. Buonasera a tutti! Ora ci sta colpito, ma se ne ci ha fregato? Io ho detto solamente cicù. Ma cicù lo già lo sai che lo dice, no? Comunque buonasera, dai. Ben entrato Mario in compagnia di Giuseppe e Vela si è accoppiato bene. Avanti Giuseppe per i saluti a Mario. Sì, grazie Franchetto, saluto Mario, ben trovato, ben risentito, ti abbiamo cercato per Mario e per molti poco fa, e niente, ben trovato Mario. Avanti, se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche Pierpaolo, una buona serata anche a lui e ben risentito. Avanti Mario. Ecco, ragazzi, mi avete cercato dove? Io stavo disperando, mi sono allontanato un attimino, ero in bagno, mi ha lasciato sul cibo, sono ritornato al bagno e non c'era più nessuno. È negativo Mario, ti abbiamo cercato anche, ti ha cercato anche Natalino per Maria Spermonti, ti abbiamo rilanciato il mike diverse volte però sempre con risposta negativa. Falchetto può essere Monti Simone, avanti Falchetto. Eia, positivo accento, dai. E così Mario, dai, ti abbiamo cercato, ma non ho, forse non ho, niente, dai, non è successo niente Mario, riprendi per i saluti che c'è anche per Paolo. Sì, grazie Falchetto, ben trovato Pierpaolo, ben benvenuto nella ruota. Avanti il mic a te Pierpaolo. Bella, un momento, saluti circolari a tutti, buonasera, ben sentite. Hai ragione Mario, dai, ti confermo quello che dici. se da fastidio, Mario. No, per carità, a me ci mancherebbe altro. No, no, no. Ognuno con la propria radio fa quello che vuole. No, io ce l'ho apparato anche con l'eco, con tutti. Ma no, no, no. Ma mi piace usarla, è meglio la mia voce polverosa che è sempre presente, no? Positiva, adesso tutto va bene così? No, oh, perché senza la sale, non è fastidioso, anzi ti spinge un po' più la radio. Ah, io non lo so che si campane. Ma non è che si campane, io dovevo un calato, un trattegno, cioè, volte televisione. Si tiene le campane, su Eni, boh. Gracias. tratto nella ruota dei matti, cambio per 6 gialli. E allora, ho visto che anche a Mario si è adeguato. Dai, io glielo detto, che a me le lancialette, i denti, ciupa ciupa non mi piacciono, capito? Io non lo posso dire, si è giuntato, non c'è più, vedi? Io lo so, io sto parlando con lo stesso apparato, io lo so come funziona. Cavagallo, no, io uso sempre quello del microfono, ecco, potrei usare anche quello dell'apparato, ma preferisco questo del microfono, è più bello. Gappa. Ma il mio... Cosa è successo? Mario, dove ti è andato a finire, cambio? Mario! Questo ripete troppo, caro Antone. Lo so, Riprendi Mario. Già pagato, poi non le copiano se tanta cose, Giuseppe. Certo, quando si siede solo con la bicchia, è come che fosse in un salotto, peccato che deve guardare la strada. No Mario, qui ti devo un attimino correggere, perché Giuseppe quest'oggi ha fatto l'ultimo carico ad Agliero e quel salotto che dici tu a momenti andava a sbattere contro, va a vedere da ridere da solo, contro un condomino, perché guarda, la strada la puoi guardare fino a un certo punto, ma quando passano cose del genere guai, non c'era né strada né camion né niente che poteva non farti girare la testa, Mario, credimi. Sto dicendo che lui quando sale, ah, che tu vuoi giù Giuseppe, non è che te ne preghi, no, almeno quello lì purtroppo quando vedi una bella grazia di Dio, giustamente io che la seguono, purtroppo è lavoro, è lavoro, però dico, quando si siede su quella bestia è come che si stesse vendendo un salutino, sembra un capo con la televisione, a fianco ve la radio, ve lo stereo, ve tutto, non manca nulla, c'è pure il frigorifero. Che cappa Mario, volevo riprendere il discorso di Gianni per caricare, e lui dice grazie a Dio non mi fa male il ginocchio per caricare, e manca a me Gianni quando sto caricando mi fa male il ginocchio, e cambio. Te ne do più dolore così. Dimmi Gianni. Ho detto ti viene dopo. Ma proprio leggero, leggero, leggero. E vabbè, tu hai anche fatto tutto il lavoro, dai, usi molto per i meccanici, invece io sono molto le mani. Lo so, me ne sono accorto quando abbiamo accordato l'antenna della parra. Cava, cava. Avanti, buon Pier Paolo, insieme a noi, cambio. Come cazzo, Pierpaolo, per cosa credi che ti abbia rilasciato il mai? Io dalla telecamerina che ho qui a casa vedo tutto, Non si parla con la bocca piena. Ragazzi, lasciamolo mangiare in pace a Pierpaolo, là poi già ci risentiamo. E cosa stavo dicendo? No, Gianni, la differenza è che tu hai un camioncino e difficilmente te ne carichi col muletto. E invece lui molla un ritello che ha salato, lo trovo già anche a carico molte volte. Capito? Lui non carica niente a mano, caricano tutto col muletto a lui. Lo so, anche io carico col muletto, quando sono pedale carico col muletto anch'io. Non è semplice, può essere roba sfusa, e quella la carichiamo a mano, perché io non ne ho pedana idraulica, quindi la devo caricare a mano. Ma no, non c'è problema, l'ho sempre fatto e non ho avuto mai problemi, quindi andiamo anche adesso, grazie a Dio. Il ginocchio si è ripreso bene, speriamo che non vi dia problemi in seguito. Ma vai tranquillo Gianni, non nominarlo nemmeno quel ginocchio, vacci a mente serena al lavoro e vedrai che è tutto sistemato, dai, ma stai scherzando, devi andare al lavoro con animo sereno, e come hanno detto a me quando mi ero fratturato il piede, io avevo sempre il terrore al rientro dall'infortunio di farmi male a quei piedi lì, e poi guarda, mi hanno inculcato per bene testa di andare a lavorare tranquillo, di pensare all'altro sano di piede, non a quello malato, e grazie a Dio sono passati 20 anni e non ho più avuto problemi. Diciamo che io un po' sto aiutando, sto sforzando un po' più sulla gamba destra, e quella sinistra la tengo un po' più leggera, però ho caricato anche lì, io piano piano sto caricando. Va benissimo Gianni, va benissimo, continua così, per... vedrai che rimarrà solo un lieve ricordo del passato che hai potuto provare, dico io, perché arrivati a un certo punto, e come hai detto tu giustamente, che il medico che ti ha curato alle mani d'oro, guarda, vuol dire che ti ha sistemato per bene, già. Vai tranquillo e di nuovo tanti auguroni da parte mia. Mi è sembrato che hai bussato Natalino, avanti Natalino. Sì, buonasera. L'ho beccato poco fa, ho detto ma se ne saranno dimenticati di me, ma non c'è problema, là. Se tornavo a chiamare se non mi chiama e basta, cosa ti volevo dire, già, guarda come ho regolato quello piccolino. Va bene. Ah, la modulazione, sì. Ah, spicciata, molto meglio. Io lo grida, se ti cominci lo trucco. L'ho sentito da certa gente come hanno fatto a regolarlo e me l'ho regolato di conseguenza senza dire niente a nessuno. Guarda, al piccolo quello che metti in macchina o l'altro piccolo? Ah, quello che c'ho qua. Ah, va bene. Vabbè, fai girare, Natale, c'è Mario, ci sono io, c'è Giuseppe, c'è Pierpaolo, c'è Pomponio che ci stavamo dimenticando, insomma, va per chi vuoi. Ehi, capa, riprendi Giuseppe, poi farai girare tu, per chi vuoi. Io accendo l'altro, così faccio ascoltare quell'altro microfono là, per vedere se ha migliorato qualcosa da ieri notte. Sì, grazie Natalino, è ben rientrato. Soprattutto facciamo girare subito questa bella ruota e facciamo entrare Pomponio. Avanti. Pomponio non c'è molto bene, avanti il mai che ha fatto. Positiva, approfitto per salutarti, dai. Io faccio il QRX. C'è la reascolina con tutte le visioni, dai. Va, QRT, dai. C'è la reascolina con tutte le visioni, dai. Salutoni a te Giuseppe, Vela, Antonio, Gianni, Natalino, Pomponio e tutti. E anche gli ascoltatori. QRT da parte mia, dai, tutte le visioni. Ciao, ciao. Buonanotte a tutti. Grazie qualche, buonanotte, buon tutto, buona ricarica se ancora non ci sia arrivato e ci si risente presto. Avanti, ciao. Ciao qualche, ci sentiamo. Buonanotte, buon trabocco per domani. Avanti, vai. Ciao qualche, buon QRT, buona carica, buon tutto. E alle prossime. Come funziona? Ah, ha migliorato parecchio. Fabio Gianni, se devo essere sincero. Ci siamo sentiti con Gigi e questa mattina io ero giù nella zona industriale e lui era sulla strada di Iperi. Niente, mi ha copiato abbastanza bene. Stamattina, come ti ho detto poco fa, ho copiato anche te Pierpaolo, però dopo diversi freschi non siete riusciti a copiarmi, forse ero io un po' in zona d'ombra. Bene, sono contento, abbiamo migliorato qualcosa allora. Andate avanti, buonasera a tutti. Ma come è stato chiamato a me? Capito, quando più. Positivo Pierpaolo, 3-3 di prestazione. Dove tu a Predarieta? Diciamo che ero di fronte alle bingo Pierpaolo. Claro, ma io ti avrei sentito, Lo so Pierpaolo, però nelle mie apparato si sentiva della sovramodulazione. Probabile che ci siamo accavallati i diversi freni, perché se non sbaglio eravate sulle 5. No, stamattina si era aperta un po' di propagazione, anche c'era un po' di cacciare, quindi abbiamo avuto proprio 2 minuti di conversazione prima che io entrassi in un capannone a caricare e lui mi ha detto che era già sulla strada di Iri per caricare anche lui. Che pompa via. Sì, adesso ho fatto tutto il pompa, ma dopo un po' così, però sono ancora sotto, fregato, adesso un'altra cosa. Ah, non lo so, perché io sempre sentito dire che la 48 è quello che ha la miglior riuscita di modifica. Tranquillo, se il professore non vuol dire, lo so che effettivamente tutto quello che hai detto tu, Radio Criminal, non c'è una, la 48. Ma già ci sono anche quelli che ce l'hanno. Tu sai cos'è quello che c'è al Criminal? No, non lo so, Sì, io vedevo che tu l'hai nominato al Freda. Lascia no. Allora? A pagarmi, E quello qua. Non so come sto aspettando, parlando prossimo, cioè il carro. Ah? Tu io lo chiamo. Ma vabbè, che facciamo girare, avanti Mario. E gli ha pagato. No, ci sono apparati che vanno bene, alle modifiche ce ne sono che non vanno bene. Io per esempio, quello che mi avevano portato via era modificato al 100%, però era una bomba. Adesso Gianni non se ne ricorda più, quando c'avevo i Lafayette, davvero, 270 canali, baracchino omologato, capito, ed era modificato il tutto, sia in potenza, sia in ricezione, nei canali, in tutto era modificato quello lì, ma era una bomboletta, purtroppo è andata a finire male. Ce l'avevo fatto quello male. Lui l'avevo comprato io così, e non me l'ha mai voluto dire chi l'aveva modificato quell'apparato, è vero. E quello lì era l'apparato che mi aveva venduto Cacciavite, non so se te ne ricordi. E a voi che me lo ricordo Cacciavite? Cioè me lo ricordo. Chiamavano la cartoffa e soprano. Ah, mi installai e stai sbagliando. Davvero. Non lo chiamavano la cartoffa. La cartoffa è un altro. Un'altra. E vabbè, comunque era quel periodo lì, Vabbè. E poi c'è la melanzana. Te la metti melanzana? Sì. La zucchero, c'era frigorifero. Ma quelli sono troppo indietro con gli anni. E vabbè, intanto fammela ricordare. C'è Capri 2 che piacciono queste cose. Vabbè, ma Capri 2 non c'è, non ci ascolta. Chissà se l'ha mandato l'Argus a riparare. Ah, non l'ha mandato. Ha fatto un altro apparecchio che va a volare, che è di vecchiaia. Gappa. Te l'hanno regalato e lui ce l'ha riparata. No, per tornare al discorso di poco fa, che adesso sono un po' cambiate le cose, ce ne sono apparati modificabili. Sì, come ha detto anche Mario, non sono tutti. Però i più che stanno andando sono 1000, 8001, stanno rispondendo un po' gli 87. Ma quello che gli si addice molto, molto, molto sono i due modelli di supercar. I due supercar escono alla grande. Vabbè, ma Emilio è Lafayette che si... cioè, come apparato, è come grandezza, come canali, come... come potenza di uscita si assomigliava molto al 3009 di Pompugno. Te ne ricordi del 3009 che aveva Pompugno? Adesso sì, mi ricordo che aveva il 3009, ma cioè, ricordami la modulazione, no? Allora, tu il 3009 di Pompugno era verde, il mio era tutto nero, però era praticamente la stessa radio, solamente che il mio era fatto da Lafayette e lui era fatto, adesso non mi ricordo manco da che marca era fatto, perché un giorno addirittura me lo volevo guardare perché non mi ricordo che cosa c'era e dice, cavolo, questo qui è fatto meglio del mio, addirittura quello lì aveva pure un'altra frequenza che non si può dire. Guarda, 5 litri. Ma sai che ce ne varia. Ma come? È super farlo, credo, Mario. No, no, no, Lafayette, quello che avevo io, che mi hanno sempre tratto. Quello... quello che va a arrivare fra pochi giorni, quello che stai dicendo tu. Deve arrivare proprio fra pochi giorni con questa modifica. Gappa, no, ma è mio, a me me l'aveva venduto un amico, non so se voi l'avete conosciuto. E niente, lui al baracchino entrava come cacciavite e niente, e me l'aveva venduto insieme all'antenna, la tela, il cavo e l'Argus. Di quello io ho 360, lì. Di che cosa? Della Lafayette? Coppa. Quello è un signor apparato, No, perché anche il mio e la Lafayette, ti sto dicendo, guarda che non c'era più posto di mettere niente, perché io ancora mi ricordo che Pomponio mi aveva comprato la scheda per mettermi il beeper, davvero, e l'abbiamo comprato, poi siamo andati a metterglielo e non c'era spazio di nulla, non ci stava. Perché c'erano tante di quelle modifiche, tante di quelle cose che a Pompone se ne sono state pure un imperi. Addirittura, come te ne vado a dire? E lui ha... Dove sei ripresi tra la tua? Eh sì, grazie amico Pierpaolo. Però io non ne sono sicuro, la mano sul fuoco non ce la metterei, ma ho sentito come dei diversi ingressi di Capri 2, perché il suo fischio entrando è inconfondibile. Vediamo un pochino se c'è. Avanti Capri 2. Sì, tutto pace, molto bene. Non so se voi avete copiato, ci sono stati un paio di fischi, come quando apre la portante Capri, qui io li sento proprio nitidamente, però